1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti, allora cari ascoltatori, intanto un annuncio: questa sera è la sera del live di Platone, la caverna dell'informazione, con Leonardo Manera, con me, con altri, si ride, ci si diverte, ci si conosce, alle 21 qui nella sede del Sole 24 Ore di Radio 24 in via Monterosa 91 a Milano. E l'annuncio è questo: ci sono, pare, nuove possibilità di biglietti gratuiti, potete venire. Dovete scrivere una mail: iniziativespeciali@radio24.it. ripeto, iniziativespeciali@radio24.it, e scrivete, se volete, dire: stasera voglio venire a vedere Platone, col vostro nome e cognome, alle 21. Vi aspettiamo. Oggi invece noi parleremo tra un'ora con gli ospiti di che cosa? Del caso Veselovskij, l'arcivescovo, ex arcivescovo arrestato per pedofilia in Vaticano. E poi avremo ospite quel giudice di Udine che, ricordate, ieri l'abbiamo detto, ha scritto in un'ordinanza: gli stranieri vengono qui e delinquono, tanto sono impuniti. In estrema sintesi, il giudice Francesco Florit, giudice a Udine, sarà nostro ospite alle 8:45. Ora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 25 settembre e i titoli sono questi dei maggiori quotidiani. Il Sole 24 Ore apre così: la Germania frena, si ferma anche l'export. Mentre l'orrore della decapitazione di un turista francese in Algeria è il titolo per molti altri quotidiani. Ora il terrorismo sfida la Francia, così apre il Corriere della Sera. Mentre Repubblica, l'orrore colpisce la Francia. Per il Messaggero, turista decapitato, sale l'allerta. Il secolo XIX, decapitato turista francese. Mentre Avvenire titola così: bombe e coltelli. In Italia, La Stampa, articolo 18, la CGIL apre, questo è il titolo di prima pagina, mentre Il Fatto Quotidiano ha questa vicenda: la RAI va a Renzusconi, mega sconto a Mediaset, questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale, giocando in maniera forse un po' troppo esagerata, su quelle che sono le decapitazioni vere, titola così: il Corriere decapita Renzi, è l'editoriale di De Bortoli di ieri. E anche Libero mette in prima pagina questa vicenda: Renzi primo licenziato. Mentre per il Manifesto il titolo è F-45, c'è una foto dell'F-35, ricordate l'aereo? Perché F-45? Perché questo è il numero di quanti F-35 compreremo. La metà rispetto ai 90 che si ipotizzava. Da 90 a 45 scende, viene dimezzato l'acquisto degli aerei F-35. Ma voglio partire proprio dalla terribile decapitazione, terribile anche per le immagini, davvero inquietanti. L'avete sentito anche l'audio di questo cittadino francese, Hervé Gourdel, 55 anni, guida di montagna di Nizza, che, pensate, sarebbe stato identificato per i suoi spostamenti che segnalava tramite Facebook. Era in Algeria da questo gruppo di terroristi che lo hanno poi decapitato dopo averlo obbligato, come al solito, in maniera terribile a fare le accuse al governo Hollande. E lui è riuscito, almeno in questo video terribile, poco prima che il coltello lo uccidesse, a salutare i familiari. Racconta Stefano Montefiori a pagina 2 del Corriere della Sera: la messa in scena stavolta è meno sofisticata rispetto ai precedenti video dei terroristi, ugualmente però spaventosa. Nel messaggio di sangue per il governo francese, così si intitola il filmato, la guida di montagna Hervé Gourdel, 55 anni, catturato sui monti della Kabilia in Algeria, appare in ginocchio con le mani legate dietro la schiena. I jihadisti gli danno la parola per costringerlo ad accusare il presidente Hollande di aver seguito quell'asino di Obama. Lui ne approfitta per aggiungere in fretta le sole parole importanti, le ultime della sua vita: Françoise, Erwan, Anouk, genitori, vi voglio bene. Seguono 3 minuti di retorica in arabo sulla guerra santa, insulti alla Francia che ha bombardato lo Stato islamico in Iraq e poi Gurdel viene spinto a terra, i terroristi lo tengono fermo, 4 lo tengono fermo e un quinto comincia a usare il coltello. Ieri su Twitter ho postato questa frase che mi ha tirato strali, critiche, insulti, gente che mi attaccava. Ho scritto questa frase: nel 2014 io non conosco cristiani, nel 2014, che sgozzano persone di altre religioni in nome di Dio. Se voi li conoscete, segnalatemeli. Non parlatemi delle crociate, le conosco anch'io, ho detto il 2014. Oggi Bernardo Valli su Repubblica, pagina 2, fa un commento e cito a proposito Bernardo Valli, per l'appunto un uomo che da decenni segue i territori teatri di guerra, da decenni è inviato di guerra. Il terrorismo erede del FIS, cioè il FIS algerino, e la nuova minaccia, questo è il titolo, la nuova minaccia sempre più vicina a noi. Bernardo Valli, pagina 2 di Repubblica. Il terrore ha compiuto un grande balzo, non è più soltanto nelle valli del Tigre e dell'Eufrate, si è avvicinato all'Europa. L'avvertimento inquietante arriva dall'altra sponda del Mediterraneo, dove un alpinista, Hervé Pierre Gurdel, sequestrato in Kabylia, è stato decapitato. E per provare che gli è stata mozzata la testa sul serio, come ormai è abitudine, gli assassini hanno mostrato il video. La micidiale patologia islamista si è manifestata ancora una volta, ci ha fatto sapere che ha la capacità di scatenarsi anche lontano dalla guerra in corso nel Levante. Può colpire e abbandonarsi a un macabro esibizionismo anche vicino a noi e forse domani anche tra di noi. Pur evitando le vampate di allarmismo, il nuovo omicidio accende qualche fantasma. La decapitazione del pacifico viaggiatore Nizzardo, che ha pagato con la vita l'amore per la montagna, fa pensare che quelle minacce lanciate da lontane province possono concretizzarsi a 2 passi da noi. Non perché lo Stato islamico abbia il braccio tanto lungo da poter agire a migliaia di chilometri di distanza, ma perché l'azione di gruppi terroristi stimola l'emulazione. Il terrorismo islamista, scrive ancora Bernardo Valli, è cosmopolita. Se il denominatore comune è l'adesione all'estremismo jihadista, tante nazionalità si mischiano nei movimenti islamisti dediti al terrorismo. E poi continua spiegandone le origini. Così Bernardo Valli su Repubblica. Obama invita 1.600.000.000 di musulmani a dire dissociatevi. Dice Obama, non è una guerra di religione, non è una guerra tra loro e noi, c'è solo il noi, perché milioni di cittadini americani musulmani fanno parte del tessuto sociale del nostro paese. Sta di fatto che la situazione è davvero è molto molto complicata. Veniamo in Italia. In Italia il Fatto Quotidiano, riprendendo una interrogazione di 2 parlamentari del Movimento 5 Stelle, mette questa notizia con ampio risalto in prima pagina, da sotto il titolo Caste, riguarda il ministro alla difesa Roberta Pinotti. L'accusa è questa: Pinotti ha utilizzato un aereo di Stato per farsi riaccompagnare a casa. Secondo il Fatto Quotidiano e secondo questa interrogazione di 2 parlamentari del Movimento 5 Stelle è successo, come racconta Marco Lillo a pagina 7, il 5 settembre scorso il ministro della difesa Roberta Pinotti ha usato un Falcon 50 dell'aeronautica per farsi riaccompagnare a casa a Genova, approfittando di un volo di addestramento programmato dal 31esimo stormo dell'aeronautica proprio in coincidenza con le sue necessità. 2 deputati del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista e Luca Frusone, hanno depositato un'interrogazione parlamentare su questo. Il volo incriminato, scrive il Fatto, è quello del ritorno dal vertice NATO di Newport, vicino a Cardiff, in Galles, organizzato dopo la crisi ucraina. Il 4 settembre l'Airbus A319 della Presidenza del Consiglio decolla da Roma, a bordo Renzi, Pinotti, Mogherini, gli staff. L'Airbus è dotato di salottini, al ritorno si ferma a Firenze con scalo ad hoc per il Premier. relativo costo di atterraggio e decollo per Roma, anche se dispone di un appartamento presidenziale con divano letto matrimoniale, due poltrone letto più le 40 poltrone per gli ospiti, il Presidente del Consiglio preferiva la sua casa per il weekend. E poi dice a questo punto Roberta Pinotti salta su un Falcon 50 dell'aeronautica e l'accusa è proprio questa: caste Pinotti sull'aereo taxi di Stato. Vedremo se ci sarà una qualche replica. Ma vince il premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare questa oggi e questa giornata. Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera racconta a pagina 23 il primo caso di applicazione del rimedio compensativo per un carcerato che era in carcere per associazione a delinquere, prostituzione minorile, violenza privata, falsa testimonianza. Titolo: sfruttava le minorenni, risarcimento e sconto per la cella sovraffollata. Per la prima volta a Padova, per la decisione del giudice di sorveglianza Linda Arata, racconta Ferrarella, il carcerato albanese otterrà un risarcimento di 4.808 euro per aver trascorso 601 giorni di detenzioni in condizioni inumane di sovraffollamento carcerario. E succede così, è la prima applicazione del rimedio compensativo per placare Strasburgo e evitare una raffica di condanne dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una detenzione in celle strette. Avete capito, daremo lo Stato, quindi noi 4.808 euro di risarcimento a questo cittadino albanese che era in carcere per associazione a delinquere, prostituzione minorile, violenza privata, falsa testimonianza. La prossima volta una cella un pochino più grande. Diamogli una cella un pochino più grande, facciamo una detenzione che non deve essere mai inumana, ma una detenzione giusta, una detenzione rispettosa, una cella un po' più grande, che così ci evitiamo questi articoli ed evitiamo di tenere le mani ben strette sul volante. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu, e poi con quella voce martellante che ti prende il cervello, ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua, allora vi ricordo, se stasera volete venire a vedere uno spettacolo live alle 21, scrivete iniziative speciali, lo ridico meglio, iniziative speciali, @radio24.it, ci sono ancora biglietti per il live alle 21 con Manera, con il sottoscritto, siamo alla sede di Radio 24, in via Monte Rosa 91 a Milano. Intanto torniamo alle questioni... di politica. Renzi da New York insiste sul Jobs Act, nessun rinvio. Il Jobs Act non è rinviabile, tutti i fari sono puntati su lunedì prossimo. Che succede? Lunedì prossimo c'è la direzione del Partito Democratico, nella quale Renzi, dopo essere tornato dall'America, parlerà a tutto il partito, ai dirigenti del partito, e poi si voterà, spiegherà esattamente cosa vuole, cosa ha in mente per la riforma del lavoro. L'obiettivo è proprio questo, tra l'altro, come racconta Gerardo Pelosi ieri dagli Stati Uniti, un Renzi che ha parlato nel suo inglese un po' così, un po' sgrammaticato, un po' improvvisato, ha detto: per favore non traducete Silicon Valley come Valle del Silicio, ha detto: il mio inglese è terribile, lo so, mettete i sottotitoli. Però sulle cose più importanti ha detto: vogliamo rilanciare l'Italia, se l'è presa con le abitudini di alcuni impiegati pubblici concentrati su Facebook e WhatsApp invece di rilasciare certificati. E quindi insomma ce l'ha con alcuni dipendenti pubblici fannulloni. Alle accuse del Corriere della Sera, l'editoriale duro di Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere ieri, se la cava con una battuta, cioè questa: complimenti per la nuova grafica, da ieri il Corriere è in nuovo formato. La realtà è che appunto Renzi guarda a questo lunedì prossimo. Lunedì prossimo, racconta il Corriere della Sera nel retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 9, il titolo è questo: il Premier prepara l'ultimo affondo, lo schema non è nuovo, Renzi lo ha applicato in più occasioni, la direzione è questa, non farà nessuno sconto. E dice questo, questa è la frase attribuita a Renzi in questo momento: li fregherò tutti, uno a uno, e su questo non c'è dubbio. Questa è la sensazione di Renzi, è la sensazione anche di Nico Stumpo, racconta il Corriere, uno che è oppositore fermo e che ammette, sapete come andrà a finire? Perderemo 15 a 85, le percentuali saranno queste, 85% del partito con Renzi. E insomma, a questo punto Renzi, la sua idea è, una volta che c'è l'approvazione in direzione, tutti in Parlamento si devono adeguare, tutti i parlamentari. Chi non si adegua, che succede? Beh, intanto che succede? Maria Teresa Meli finisce il suo retroscena così. Ieri, nel transatlantico di Montecitorio, come nei corridoi di Palazzo Madama, si tornava a parlare della possibilità della nascita di un governo tecnico teleguidato dalla BCE e dalla Germania. Addirittura siamo alla fantapolitica? Beh, leggendo il quotidiano Il Giornale e il quotidiano Libero e il quotidiano Il Fatto Quotidiano, ma anche sul Manifesto, invece si parla già di questo, cioè lo scenario è questo. Ieri il Corriere della Sera con Ferruccio De Bortoli, quindi Corriere della Sera, poteri forti del paese, attacca frontalmente Renzi. E subito se si parla, beh, i poteri forti hanno abbandonato Renzi, sono delusi da Renzi. Eccolo qui, Libero, pagina 4, le possibili alternative, Draghi e Visco. Cioè si parla già, Visco di Banca Italia, si parla già, almeno nei corridoi dei palazzi di Montecitorio, del Senato, della possibile caduta del governo Renzi. Ripeto, fantapolitica? Non lo so, io vi leggo quello che c'è sui giornali. Anche Repubblica, Lavoro, Renzi non si ferma, sia la discussione nel PD, ma poi tutti si adeguino. E su questo c'è stata l'offerta di Susanna Camusso, leader della CGIL, tanto che La Stampa titola in prima pagina proprio così. La CGIL apre sull'articolo 18. Nel giorno in cui Beppe Grillo attacca il capo dello Stato e lusinga la minoranza del PD, sto leggendo l'articolo del Corriere della Sera, pagina 8, di Alessandro Trocino, in questo giorno c'è l'apertura di Susanna Camusso ieri a Porta a Porta. Cancellare l'articolo 18 vorrebbe dire rendere più servile il mondo del lavoro, dice la leader CGIL, ma poi apre uno spiraglio sulla trattativa. Se si parla di allungare il periodo di prova, sono per discutere dei tempi. Capisco ci sia una stagione in cui l'articolo 18 non vale, ma è necessario che sia transitoria. 3 anni non sono la stessa cosa di 7. Eccolo lo spiraglio di Susanna Camusso, raccontano i giornali. Mentre invece Repubblica racconta che su un altro tema, quello dell'autoriciclaggio, c'è stato un litigio furibondo, scrive Liana Milella su Repubblica, tra i ministri Padoan all'economia e il ministro della giustizia Orlando. Litigano malamente Padoan e Orlando, succede ieri mattina, prima che il titolare dell'economia parta per Bruxelles. L'oggetto dello scontro è il reato di autoriciclaggio, o quello che ne resta, come dicono i tecnici di Via 20 Settembre. L'accusa del Ministero dell'Economia è che la legge che sta uscendo è troppo blanda nei confronti dell'autoriciclaggio, e quindi Padoan dà l'altolà a Orlando. Questo è il titolo, e Repubblica racconta anche di un litigio tra i due. A proposito di ministeri, invece, c'è da segnalare la decisione da parte della Camera di dare il via libera al dimezzamento dell'acquisto degli F-35, gli aerei tanto discussi. Se ne devono comprare 90, la Camera ha deciso se ne compreranno 45. Dimezzare gli aerei F-35. Tanto che il Manifesto da 90 a 45 li ribattezza proprio così, F-45. Il Manifesto dedica una pagina a quella che è stata una campagna per tanto tempo per il Manifesto. Il Manifesto voleva, come molti altri, addirittura annullarli in toto, cioè non comprarne manco uno. Andrea Fabozzi racconta La prima mozione approvata dice che bisogna rivedere tutto il programma di acquisto degli F-35 e dimezzare il budget previsto, ma le altre che bisogna rispettare gli impegni assunti con gli americani della Lockheed, cercando però di risparmiare. Da qui l'idea di avere un taglio, un dimezzamento dell'acquisto degli F-35. In tutto questo, chissà se Matteo Renzi, quando ha parlato di dipendenti pubblici, alcuni dei quali usano WhatsApp e Facebook, non ha scritto Twitter, perché Twitter effettivamente sull'argomento lui è anche un po' più sensibile. Comunque, chissà se pensava o chissà se era veggente nell'immaginare l'articolo che oggi il giornale scrive a pagina 17, che è questo, con Valentina Raffa: impiegati assenteisti, ma l'ASL assume, succede a Siracusa, dove la magistratura ha scoperto che in 33 dipendenti della ASL timbravano e andavano a nuotare, a fare shopping, a fare le commissioni, a fare i fatti loro, insomma. In 33 sono stati pizzicati dalla Guardia di Finanza di Siracusa. Ma che succede? Ora l'ASL ha bisogno di assumere nuove persone, ma non perché siano state cacciate queste qui. La stortura pare questa, scrive il giornale: mentre 33 dipendenti sono beccati come assenteisti, intanto l'ASL di Siracusa dice: abbiamo bisogno di nuovi dipendenti, dobbiamo ampliarci. Evviva! Insomma, fare shopping e andare in piscina nell'orario di lavoro, un po' la classica abitudine di Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, eccoci qua. Buongiorno. Sì, beh, anche io aggiungerei una spa, perché insomma non vorrei limitare la cosa. E anche altri sport, il tennis, il golf, perché dobbiamo limitarci a delle cose. Vedo che non hai citato il calcio e ti ringrazio per questo. No, vabbè, adesso mi sembrava ingeneroso veramente da parte mia. No, però vedevo, adesso consideravo mentre tu leggevi questa cosa, che noi riferiamo che stanno cercando dei risparmi anche dalla sanità, e c'è scritto sul Sole 24 Ore di oggi, ci dicono mobili che si sta cercando di risparmiare sull'istruzione e anche sulla sanità, anche se la partita è tutta da vedere. Comunque c'è bisogno di un miliardo e mezzo, così tanto per solo dalla scuola e la difesa. Tu hai i 2 euro perché, sì, certo, vabbè, e quelli metterai, insomma, quello che hai. Anche perché ti informo che oramai si sa che tu hai questi 2 euro. Perché come puoi leggere grande oggi capitale. Su norme e tributi, la pubblica amministrazione ha 128 banche dati, capisci che è impossibile che su 128 non ce ne sia una dove non ci sono i tuoi 2 euro. Comunque il mio direttore dell'Agenzia delle Entrate, la signora Orlandi, ha detto che semplificheranno la cosa, cercheranno di utilizzarle un po' più connesse tra di loro. E intanto cominciano con l'anagrafe tributaria per i divorzi, non so se l'avevi sentito. No. Si potrà usare in caso di divorzio, si potrà usare anche l'anagrafe tributaria per capire appunto la consistenza dell'ex coniuge e vedere un po' quale può essere la sua così disponibilità a sostenere le spese di vari assegni che si erogano in questi casi. Trovi tutto naturalmente, indovina dove? Ma certo, ma lì, su norme. Esattamente, sulle pagine di norme e tributi. E poi la TASI, hai studiato? No, non hai studiato, lo so. Vabbè, oggi non ti interrogo, ecco. Ti dico solo che oggi ci sono le pagine di Casa 24, come ogni giovedì, e allora, nelle pagine di Casa 24, proprio la prima pagina, per agevolarti così non fai fatica, la TASI e l'impatto della TASI sulle seconde case, sugli investimenti, diciamo, su chi poi affitta la casa. Ecco, oggi grazie, però... Prof. Oggi abbiamo spiegato, guarda che poi interrogo, perché prima o poi la TASI, guarda che entro il 16 ottobre la devi sapere. Grazie prof. Ricordati questa cosa. È molto umano prof. Va bene, concludo con una cosa di trasporti vagamente, privatizzazione delle FS, delle nostre ferrovie, tutto sulle pagine questa volta non di norme e tributi ma di finanza. Quindi nel dorso, come si dice, di finanza, trovi in prima pagina tutti i dettagli sull'avvio di questo piano, non è imminente ma insomma arriverà, di privatizzazione. Perché ti parlo di cose di movimento secondo te? Chissà, in questo chissà. Chissà, per poter dire la fatidica parola traffico. Alessandro Milan, il master chef dell'informazione, addirittura. Allora, e allora noi alle 8:15 parleremo della vicenda dell'ex arcivescovo Veslovsky. Dico ex arcivescovo perché era stato già ridotto in stato laicale dopo le terribili accuse. Io ieri ho citato questo reportage che ho avuto la fortuna di leggere sull'International Herald Tribune a fine agosto, e un reportage incredibile dove c'erano scritte delle accuse terribili. Oggi questo reportage viene tradotto e riportato da Repubblica, leggetelo, perché racconta come dei giornalisti locali, una giornalista locale soprattutto, pizzicò e scoprì le attitudini e perverse abitudini sessuali nei confronti dei minori dell'ex arcivescovo Veslovsky, che è stato arrestato, fa sapere il Corriere della Sera, è stato trovato anche in possesso di materiale pedopornografico in Vaticano. E tra l'altro scrive il Corriere, come altri giornali, che l'inchiesta ora si allarga perché ci sarebbero anche altri 3 vescovi in questo momento sotto processo per abusi sui minori. Si tratterebbe, scrive il Corriere, del cileno Marco Antonio Ordenes, del peruviano Gavino Miranda Melgarejo e poi, questi sono 3 vescovi e il terzo non viene citato, il terzo sono 3 in tutto, insieme a Veslovsky sono questi altri 2 che ho citato. Rischia dai 6 ai 7 anni di carcere, questa è la pena. Certo, però ci si chiede anche perché sia stato fatto rientrare un anno fa in gran segreto in Vaticano. Perché non sia stato consegnato alle autorità di Santo Domingo che indagavano. Comunque il giornale oggi racconta una testimonianza shock, lo fa con Serena Sartini a pagina 16, io violentato dal cardinale sulla spiaggia di Santo Domingo. Lo chiamavamo l'italiano perché parlava spagnolo con accento italiano, mi ha comprato coi soldi e ha comprato il mio corpo, sapevo che non era la cosa giusta da fare ma avevo bisogno di denaro. Parla così Francis Aquino Aneuri, oggi 17 anni ma ne aveva 14 quando Monsignor Veslovsky abusò sessualmente di lui. Ero lungo la spiaggia per tirare su qualche spicciolo, lucidavo le scarpe ai ricchi, poi è arrivato lui, mi ha offerto soldi per fare il bagno nudo mentre mi guardava. Passeggiava lungo la spiaggia, veniva a cercarci, ci offriva soldi, a volte 500.000 pesos, cioè poco meno di 10 euro, e ci portava in una casa a Juan Dolio, residenza estiva del nunzio. Prendeva anche 2, 3, 4 bambini insieme e ci filmava col telefonino. Ora, ovviamente, tutti a parlare anche del cambiamento del Papa, e ne discuteremo con Lucetta Scaraffia, che è professoressa alla Sapienza e scrive anche editorialista per l'Osservatore Romano, e ne parleremo con Gianluigi Nuzzi, questo dalle 8:15, colui che conduce Quarto Grado ma ha scritto dei libri importanti sul Vaticano, cito solo Vaticano S.P.A. e Sua Santità. Altra vicenda, ben altra vicenda giudiziaria, ma polemiche per il sindaco De Magistris, che è stato condannato in primo grado a Roma a 1 anno e 3 mesi di reclusione, pena sospesa, nel processo che lo vedeva imputato di abuso d'ufficio quando era PM per l'acquisizione di tabulati telefonici. L'accusa è per l'inchiesta cosiddetta Why Not, è una pena alla quale è stato condannato anche Gioacchino Genchi, all'epoca di fatto consulente informatico della Procura in Calabria, dove era Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli si dice profondamente addolorato, definisce insussistenti le accuse, aggiunge: non mi dimetto. Abusi nelle indagini sui politici, 1 anno e 3 mesi a De Magistris, ovviamente anche le richieste di dimissioni da più parti. Mentre continua l'inchiesta, diciamo, su Alex Schwarzer da parte del Corriere della Sera, Andrea Pasqualetto racconta del ex marciatore che è stato squalificato per doping. Schwarzer e l'atletica prima di doparsi, quanto era bello. Sono una serie di intercettazioni nelle quali Schwarzer racconta a una persona, a Salvatore Giuliano, comandante della sezione atletica del centro sportivo di Bologna, Sai quante volte mi ritrovo solo e mi dicevo, ma quanto era bello fino a 4, 5, 6 anni fa, quando ero più ignorante, facevo atletica, quando guardavo meno a destra e a sinistra. Sono le frasi, le intercettazioni di un Alex Schwarzer che diceva, meglio non sapere tante cose, molto meglio l'atletica prima che iniziassi a doparmi. Questa frase non la dice così, ma si capisce dalle interpretazioni delle mail. Mentre, attenzione, c'è una notizia. Ricordate quello del il comandante Gregorio De Falco, quel torni, quello del torni a bordo a Schettino? È stato rimosso dal suo ufficio e dice, è mobbing, farò causa. Via l'ufficiale del salga a bordo, è mobbing, sono pronto a fare causa. Fa anche un'intervista a Repubblica, dice, Schettino è in cattedra, io spedito in ufficio. Questo paese storto punisce i suoi servitori. Intervistato Gregorio De Falco da Repubblica, dice, vittima di mobbing. Qualcuno ha scritto, torna in ufficio. Vabbè, e poi aggiungete la parola che volete voi. Va bene, siamo al momento della carta costa. Dopo aver detto che Juve e Roma hanno vinto, e quindi Juve Roma avanti tutta, questo è il titolo della Gazzetta. Ho battuto Clooney, una pagina di Alessandro Dell'Orto su Libero. Clooney voleva fare il ricevimento al Cipriani, ma è stato battuto da un manager italiano, Mauro Marchiaro, che aveva già prenotato la location. Ho battuto Clooney. Ale, 5 su 7 giorni c'è, chissà se c'è anche un caffè, tra un quotidiano un'intervista milanista lino è.